Altro Consumo ha lanciato attraverso un sito internet una campagna che si chiama abbassalatariffa.it per chiedere ufficialmente una riduzione della tariffa di terminazione mobile. Marco Pierani, che è responsabile delle relazioni istituzionali di Altro Consumo, ci spiega i motivi e soprattutto da dove nasce questa esigenza. Allora Pierani, partiamo proprio dai motivi. Perché avete lanciato questa campagna soprattutto in questi ultimi giorni? Abbiamo lanciato questa campagna in questi ultimi giorni perché la decisione definitiva dell'AGCOM è molto vicina, è imminente direi. È una questione lunga che si protrae da lungo tempo e abbastanza italiana, perché la Commissione europea si è già espressa con una raccomandazione del 2009 dicendo che le tariffe di terminazione mobile vanno ridotte e riportate ai costi effettivi. L'AGCOM purtroppo non ha dato seguito a questa indicazione europea, mentre altri stati lo hanno fatto, e è venuta fuori con una proposta nel maggio di quest'anno molto debole, quindi la riduzione che la Commissione europea chiedeva di portare a un centesimo di euro al minuto per la fine 2012 invece la sposta alla fine 2015. Tutto questo noi lo facciamo perché la tariffa di terminazione mobile si ribalta sul consumatore che paga moltissimo, in particolare le chiamate da fisso a mobile. Questa è esperienza di ogni consumatore italiano che sa che è un bagno di sangue chiamare dal fisso al mobile. Per cui chiediamo alla AGCOM di prendere una decisione seria, lo chiede l'Europa. Il mese scorso la Commissione ha richiamato l'AGCOM a rivedere questa proposta, quindi questa è la decisione che deve essere presa sostanzialmente. Voi pensate che di fronte ad un abbassamento di questa tariffa decisa appunto per via amministrativa dall'autorità per le comunicazioni, in caso di abbassamento ci potrebbero essere degli abbassamenti di prezzi in generale delle tariffe telefoniche? Noi pensiamo di sì e vogliamo ritenere che sia così, perché in un mercato efficiente e competitivo come vanta di essere quello delle TLC, una riduzione di questo beneficio improprio dovrebbe essere riportata al consumatore finale, cioè il beneficio dovrebbe essere trasferito in un mercato efficiente e competitivo. Chiaramente la battaglia per la riduzione della tariffa di terminazione mobile che stiamo portando avanti adesso è un primo passo. Se il mercato successivamente alla decisione della AGCOM, che noi auspichiamo, non trasferirà i benefici al consumatore mobile, noi dovremo rivolgersi per forza all'antitrust, ma sarebbe abbastanza peculiare che tutti gli operatori del fisso, avendo questo beneficio, non lo trasferissero in parte, chi più chi meno, all'operatore, al consumatore finale. Sarebbe quasi un accordo, direi che non è da sperare che possa succedere questo. Questo è un argomento, penso, molto debole che portano avanti alcuni operatori di telefonia mobile, perché vogliono ancora garantirsi quella posizione di rendita. Ecco, io volevo dire una cosa: noi non siamo né a favore della posizione di rendita dei mobili né dei fissi, siamo contro le posizioni di rendita. Quindi se la battaglia che noi iniziamo sulla tariffa di terminazione mobile deve avere un seguito anche successivamente per abbattere eventualmente il trasferimento della rendita di posizione dal mobile al fisso, lo faremo molto con la stessa convinzione di quella che stiamo portando avanti adesso. Non è la prima volta che assistiamo ad una proposta dell'autorità per le comunicazioni che fa discutere, questo è giusto che sia in un paese democratico dove ci sono dibattiti su tutto, però non è la prima volta che vediamo una certa debolezza, un certo timore dell'autorità per le comunicazioni nei confronti degli operatori. Come mai accade questo e soprattutto accade solo nel nostro paese? Ma il nostro paese è sicuramente più soggetto a questa a queste discussioni, a queste prese di posizione abbastanza deboli. Il fatto che le tariffe di terminazione mobile debbano essere ridotte è certo, c'è una raccomandazione europea e quindi alcuni paesi si sono già allineati. Noi siamo del 50% all'attuale tariffa superiore rispetto alla media europea e se adotteremo la proposta della Agcom arriveremo a situazioni di oltre il 90% sopra la media. Io ricordo che ancora prima della raccomandazione nel 2008 l'ex commissario europeo Viviane Reding, adesso è la commissaria invece la Kroes, quando già si parlava di terminazioni mobili si espresse abbastanza pesantemente nei confronti della Agcom, dicendo che sostanzialmente le decisioni della Agcom erano poco ambiziose, non in linea con la Commissione europea e forse beneficiavano gli operatori mobili nazionali, ma sicuramente andavano contro gli interessi dei consumatori italiani. Quindi mi piace ricordare che anche nella legge istitutiva dell'Agcom c'è la tutela del mercato ma anche dei consumatori. Ecco, l'Agcom dovrebbe tutelare i consumatori in questo caso e seguire per una volta seriamente quanto gli viene chiesto dalla Commissione europea. Perfetto, io direi che